Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stormo Rock. Vi introdurrò praticamente subito, perché così andiamo a parlare direttamente con loro, perché abbiamo tante cose da parlare, anche se è una band sostanzialmente nuovissima, perché solamente questo è il terzo anno in cui sono secondo anno, mi fanno dalla regia dall'altra parte, mi fanno accenno secondo anno, quindi 2021 ipotizzo, ma adesso vi introduco, perché abbiamo ripreso anche con le interviste. Questa è la prima intervista dopo la ripresa della pausa estiva, quindi come dicevo, bando alle ciance, io dall'altra parte ho i ragazzi, due quarti degli Old Sox, nello specifico Vittorio che è la mia sinistra e Alessio. Ciao ragazzi, come state? Ci siamo, ci siamo. Oh, belle voci squillanti, ciao a tutti da Alessio e Vittorio. Esatto. Oh, benissimo, come state allora? Tutto bene? Ma tutto bene, dai, è iniziata la scuola, siamo a settembre, arriva l'autunno. C'è più traffico, c'è più gente. Le solite cose. La monotonia e la routine. Però dai, non ci lamentiamo come le persone che si lamentano. Esatto. Cerchiamo di essere positivi. Esatto. Dai. Bravo, bravo. Spirito bravo. Positivo sempre. Bravo, bene. Io quindi già d'amblè così, no? 2021 quindi, sei proprio al secondo anno. Sì, in realtà mi sa che era proprio più o meno, non dico di questi periodi, ma un po' prima. Tipo, fu comunque, ora non mi ricordo quale ondata del Covid, una delle varie ondate del Covid in cui ci, in realtà, l'origine della band era i due quarti, ovvero io, l'altro due quarti, io e Moreno. Poi dopo successivamente si è aggiunto io, Alessio e poi Michael, che salutiamo. Ed è stato circa giugno, mi sembra, maggio-giugno 2021, quindi sono esatto, più o meno due anni, poco più di 2 anni, giusto, sì. Bene. Sì, ci siamo assestati in quei momenti, quel periodo lì, perché in realtà avevamo provato anche diverse formazioni così, ma diciamo che la formazione attuale assestata è arrivata, è stata partorita più o meno in quel momento. No, bene. Quindi 333-180-94-94 se aveste qualche domanda da fare ai ragazzi qua degli Old Sox, oppure scrivete anche il mio numero o al loro numero, perché tanto bene o male siamo qui col telefono silenzioso, quindi possiamo leggere i messaggi nel caso che ci arrivino in entrambe le formazioni, tanto è free la questione. Prima di iniziare effettivamente l'intervista con voi, ho una domanda di rito a cui nessuno scappa, ed è molto semplice, non vi spaventate perché è molto semplice. Come sicuramente sapete, dall'anno scorso i NoFX hanno detto che il prossimo anno ufficialmente si scioglieranno, quindi molto semplicemente e brevemente vi chiedo cosa sono per voi i NoFX. Domanda difficile, inizi tu o inizio io? Ma io sono breve, cioè nel senso, io NoFX a me hanno rappresentato uno di quei gruppi che mi hanno traghettato dal punk, diciamo, e di MTV commerciale a quello un pochino più underground, e hanno rappresentato un po' l'inizio di quello che poi sono state un po' le mie varie evoluzioni musicali e di ascolto, quindi ho un ricordo, perché penso che se è vera la notizia che si scioglieranno rimarrà poi un ricordo positivo, nonostante poi onestamente, questo è il mio punto di vista, gli ultimi penso 3-4 album, perché poi ho perso il conto, non li ho proprio considerati perché non mi piacevano più, però mio punto di vista, tanto di cappello, non gli potrò mai dire nulla contro, quindi io mi accodo a Vittorio accentuando un aspetto. Io mi ricordo che trovai una cassetta di mio fratello più grande che era Punk in Drablic. Lì è stata colpa di mio fratello, cioè diciamo che è nato da lì. Già prima mi ero approcciato ad altri gruppi, come diceva Vittorio, tipo gli Offspring, ma proprio quella ha traghettato anche me dietro a una scena un po' diversa rispetto a quella che si poteva vedere nei video di MTV. E io ti dico la verità, certi pezzi mi fanno battere forte il cuore ancora, cioè niente da dire. Mi dispiace che si sciolgano effettivamente, però anch'io ho perso un po' il seguito dei loro lavori più recenti. Vederli mi piace ancora, ecco, e quello mi mancherà. certo, certo, benissimo, benissimo, bene. Quindi pareri molto positivi come la maggior parte di quelli che, a cui l'ho chiesto. Quindi sto ancora portando avanti questo mio sondaggio. Cioè, c'è stato pochi, qualcuno che ha detto che effettivamente gli interessava relativamente poco dello scioglimento dello FX. Ovviamente è un punto di riferimento del genere, però era anche giusto che si sciogliessero perché erano arrivati un po' al capolinea. Sì, assolutamente. Con gli ultimi album effettivamente mi trovo anch'io d'accordo. Li ascolto, però non sono più quelli di una volta. No. Ma non facciamo i vecchi su questo lato. Esatto. Diciamo, delle cose nuove le hanno fatte, però esatto, che a noi piacevano relativamente il giusto. Entriamo effettivamente a parlare con gli Old Sox. Una domanda molto semplice, dato che comunque sono comunque 2 anni che siete informati, se vi siete informati, come sono nati un po' gli Old Sox? Molto basica come domanda, però effettivamente come vi siete formati, mai si sono formati gli Old Sox? Allora, adesso io Vittorio lo conosco da diversi anni, comunque ci siamo sempre beccati in giro con lui e i suoi gruppi, io e i miei, abbiamo condiviso palchi eccetera eccetera, e ci siamo sempre annusati, cioè, perché comunque nonostante magari facessimo cose totalmente diverse dal punto di vista musicale nelle band che avevamo, comunque anche a livello di gusti musicali ci siamo sempre trovati molto affini. Quindi diciamo così che quando lui mi chiese, ma sai che io e quest'altro ragazzo Moreno, che penso che la loro dinamica fosse più o meno la stessa, vorremmo mettere su una band con queste caratteristiche, cioè è stato come invitare un occhio a bere, per quanto mi riguarda, capito? Su quello ci siamo sempre. E per gli altri, invece Michael è una conoscenza di Vittorio. Secondo me Michael era fermo da un po' col suonare la batteria. In realtà diciamo che si è fatto tirare dentro dallo charme, dal sex appeal di Vittorio. Quanti complimenti. Vedi ci spendiamo proprio. Vabbè, ci sta, dai. Così, quindi diciamo il tutto è iniziato un po' così. Poi sul come suoniamo, è una bella domanda, come suoniamo. Se chiedi a me nello specifico come suono ti rispondo male, quindi non so. Personalmente io cerco di diciamo così, sono un po' ritornato alle origini con questo gruppo, no? Suonare quello che mi piaceva e che tuttora mi piace, ma che quando ero più ragazzino, quando iniziavo a scoprire il punk rock eccetera, mi smuoveva di più, ok? E tuttora mi smuove, infatti questa è una cosa strana della musica in generale, credo. E per quanto riguarda quello di cui parlano le nostre canzoni, parlano un po' di paradossi in cui viviamo, sia robe molto intime, personali, no? Ma anche paradossi della società in cui ci troviamo a pestare terra tutti i giorni. Quindi a sto punto ti chiedo anche Changes, che è il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, un po' di parla di società, paradossi, cosa... Allora, Changes parla di come una persona, di come cambia il pensiero durante la vita, no? Magari da ragazzino sei convinto di cambiare il mondo, hai la rivoluzione dentro, no? Poi crescendo magari ti uniformi un po' di più o comunque moderi il tuo pensiero, il tuo modo di fare. E Changes parla proprio di questo cambiamento nell'arco di una vita del pensiero, cambiamento a cui, non lo nego in totale onestà, magari io stesso sono vittima, non è corretto dire, però cambiamento che ho fatto anch'io nel mio modo di pensare, di agire, e parla un po' di queste cose. Questa è una canzone abbastanza intima in realtà. Ok. Come altre invece sono un po' più arrabbiate, ecco, sul tema che trattano. No, va bene, ci sta. Infatti mi sono scordato di dirvelo all'inizio, gli Old Sox sono qui ovviamente perché sono usciti con il loro primo perché non sei qua per caso. Sono quelle cose che vai dai per scontati, tanto ormai ne fate così tante che esatto. Sì, ormai si capisce per quale motivo la band è qua. Però ricordo che gli Old Sox sono qui perché sono usciti con il loro debut EP di 5 canzoni. 6 canzoni. Sono 6. sei canzoni che dopo ci, vi racconteranno un po' le peripezie che hanno avuto un attimo durante la stampa sostanzialmente, però sì, adesso non vi annuncio niente, ma ne parleranno direttamente loro dopo. Beh, direi che le influenze sono abbastanza chiare in quello che proponete con gli Old Sox, quindi come dicevo prima, richiamo della voce sinceramente molto Get Dead, come vi dicevo prima, che no, come strumentalmente non c'entra nulla con i Get Dead, poi strumentalmente si va sul classico punk rock hardcore melodico che può richiamare i Bones in Souls o anche i classici NoFX, The Use for a Name e quant'altro del genere, quindi direi che sì, poi quello. In realtà in quei pezzi, ora sono sei pezzi, questo un pochino forse, diciamo, ci tengo a dirlo, non sono proprio tutti uguali, nel senso, almeno questo è il mio punto di vista, ma credo un po' della band, c'è un po' di tutto, è un luogo comune dire c'è un po' di tutto, ascoltiamo un po' di tutto, però io lo definirei un disco punk hardcore melodico a 360 gradi, cioè... ora magari anche dopo sentendo le altre canzoni fai fatica, secondo me, ma questo anche a detta degli altri, ad avere uno o due riferimenti di band, sai, tipo, che ne so, ascolti un gruppo, dici sono uguali, no, è brutto dirlo, simili a, non so, in effetti sono uguali, simili a i Rancid o non so, in Abbott, cioè, ecco, no, secondo me invece noi siamo un po' un insieme di tante cose, perché poi anche frutto un po' della passione comune, ma anche un po' delle influenze diverse all'interno della band, perché poi il mondo del punk rock è talmente variegato che sì, dici. Tra un gruppo e l'altro, secondo me, ci passa veramente il mare, tipo, cioè, per certi versi, esatto. Ok, vero. Per certi versi sì, è vero. Passando invece al... Adesso questa è una mia idea, yes. come nome di Old Sox. La mia idea che mi sono fatto quando ho detto, quando si chiamano Old Sox, ho detto sicuramente non sono più dei ragazzini. Ho detto sì, in conseguenza la buttano su un attimo sull'ironia, le vecchie calzette del punk, no? Io l'ho pensata così, poi dopo ditemi voi adesso come è nato. C'hai dato un jolly da raccontare, esatto, in giro, perché non era questo il motivo, ma è bellissimo. Esatto. Però ci sta, sì, così possiamo far credere di aver messo le mani avanti, esatto. No, in realtà mi sa che è nato tipo quelle robe tipo chat di gruppo, sì, tipo due giorni a cercare di capire come chiamarci, e poi alla fine è uscito fuori Old Sox, che era forse un'unione di Old di un altro nome, Sox di un'altra parte, insomma una roba del genere. Era, però sì, forse involontariamente richiama un po' questa cosa, nel senso, anche sì, il fatto del no, del vecchio del maturo, no, anche la memoria, il fatto anche di ritornare un po' ad alcune sonorità che diciamo sono esplose 20 anni fa, più o meno, quindi comunque ci hanno appunto traghettato e inserito in questo mondo. Poi diciamo, come diceva anche Alessio, ognuno di noi ha preso anche strade diverse, per quanto tipo ad esempio io e anche Moreno suoniamo insieme in un altro gruppo, facciamo sempre punk però in maniera diversa, quindi sì, secondo me è un po' anche legato a una sorta di nostalgia positiva, forse. Quindi il vecchio, Old Sox, il casino vecchio, il pace, ci sta. Beh, sì, è tutto legato. È tutto legato. Stasera abbiamo anche trovato una nuova linea. Il motivo, ci sta. Ho detto, infatti mi era venuto in mente così. Ho detto, adesso, ovviamente gli chiederò come sono effettivamente, come è stato trovato il nome, perché chiedendolo anche ad altre band sono saltati fuori le cose più disparate. Ah, una serata super ubriachi di qua. Vabbè, perché c'era il ignorante. sai, solitamente saltano fuori quelle robe lì. Poi dopo ho detto, magari c'è un senso dietro, però effettivamente qua è stata semplicemente un attimo l'unione di due, esatto, di due pensieri, esatto, di due pensieri. 6 EP, scusate, 6 pezzi, magari arriveranno i 6 EP. C'è già qualcosa di nuovo in cantiere oppure vi fate abbiamo fatto un paio di canzoni nuove, ovviamente perché dobbiamo anche un po' allargare la scaletta essendo un gruppo nato da poco, considerando anche che i primi metà anno siamo stati stroncati diciamo dal Covid come un po' tutti, quindi in realtà poi effettivamente non è che abbiamo avuto tutto questo grande tempo per assestare una scaletta lunga, però sì, abbiamo un po' di altre canzoni nuove, sì, quindi qualcosina c'è, sì, già quasi finito, sì, altre cose in cantiere, sì. Quindi a sto punto un altro EP o riuscite a fare un altro album? No, intanto andiamo con questo. Passo dopo passo. Poi dopo, quando ci saranno i pezzi, ci regoliamo. Esatto. Non siamo i Bad Religion degli anni 80 che facevano un album ad anno. Quindi... No, non abbiamo nemmeno il tempo per farlo. Lo vorrei fare volentieri, ma purtroppo la mia la nostra vita è quotidianamente, diciamo, logorata da altre cose. Esatto. Quindi, vabbè. Però logorata da altre cose giusta. È un termine struggente che fa capire effettivamente il difetto e il problema. Esatto. Altre cose. Il bello della diretta. Esatto. Il bello della diretta, non studiato, tutto bello così. Bello, come faceva Totò. Bravo, cioè, tutto a braccio, come si dice, senza mettersi troppe pippe per dire oddio, questo diciamo deve pip. Fare così. Diciamo pippe, esatto, per capirci molto, molto breve. Vostro pezzo preferito di questi sei? Vai prima tu e dopo io. Io pensavo fosse facile come domanda. Ah sì? Lui ci è rimasto un attimo. Sì. Allora, a me piace. Io posso darne due, capo. No, uno. Uno solo. Un po' facile. Vabbè, dai, sono sei. Allora, se erano 12, se erano 12, potevi dirmene due. Ma su sei, una, dai. Dai, ti dico Shit Again. Ok. The Right Recipe. Attenzione, qua c'è uno spoiler perché è il prossimo pezzo. Che ah, sì? Eh sì, oh. È uno dei pezzi che okay. mi hai dato. Hai ragione anche te. Ma vai tranquillo, tanto se il tuo pezzo preferito è... Sotto il primo poi, Sì. Sotto il primo che abbiamo fatto insieme, sì sì. Ah, beh, interessante. Quindi come... Sempre legato alla nostalgia, all'emozione. Ok. Cioè, sembro deficiente, ma sono anche emotivo, quindi... No, vabbè. In questo momento sta piangendo. Sì, sì, o sto sudando. Non si capisce, però. Non se, esatto. Se sudore o piange. È come sotto la doccia, no? Piangi sotto la doccia per non far capire che stai piangendo. Esatto. Poi ci sono occhi a pa... È vero. Ma sono quelle cose emo che bene o male si dicono, tanto... Sì, sì, sì. Non essendo emo, non lo so. Va bene. No, vabbè, dai, quindi questo è il vostro pezzo, è il vostro primo pezzo, sì, sai, perché ci andiamo a ascoltare tra poco, fra parentesi, prima della pubblicità. E quindi è l'altro tuo pezzo preferito a sto punto, dimmelo, perché vabbè, l'indecisione su cos'era. Doing Nothing. Beh, anch'io. Aspetta, anche questo, attenzione, sì. Attenzione. Sì, questo anch'io, sì, è vero. Ok. Che è poi il primo singolo che è uscito, quindi sì, dai. No, va bene, dai, almeno abbiamo definito un po' i vostri pezzi. E degli altri ragazzi sapete qualcosa o... Moreno, secondo me, Doing Nothing. Doing Nothing. Michael, non saprei. Michael, forse era Changes. O Shit Può Again. Essere, sì. Può essere. Beh, Changes. Comunque è difficile scegliere uno. È una cosa proprio cattiva questa. Lo so. perché comunque no. Quando li fai, li ami. Sì. Cioè, non sono tutti belli. Cioè, certo. Come i figli, no? Sono tutti uguali, tutti belli. Amore di mamma, come si dice. Seconda parte di L'Estormo Rock. Siamo sempre qui in collegamento con in collegamento, ormai è l'abitudine, perché solitamente faccio le interviste tramite Instagram, ma in realtà siamo in diretta con, con gli Old Sox, a guardarci in faccia. Esatto, che è anche molto più facile da parte mia, perché quando ci sono gli intramezzi, magari è una cosa che ho detto, dico spesso, quando sono intramezzi della canzone che va in radio, su Instagram sei costretto costantemente a dire qualcosa, perché sennò quei quattro strozzi che stanno guardando, dici, cosa guardo? Due persone che si guardano negli occhi e una a casa proprio. Effettivamente. Quindi devi trovare sempre qualcosa da dire. Però la minchiata che ho trovato da dire, sì? Che è una stupidata, però chiedo se hai una battuta da dire, una barzelletta. Se ovviamente... No, lui ne ha 500, no, quindi non cominciare. Non è questo. È peggio del discorso di Ferretti di prima. Esatto, non lo riapriamo. Non me ne viene in mente nessuna. No, non gliele farei dire. Che lui è Martufello della bassa. Cioè, fantastico. Ah, vabbè, interessante. Vabbè, quindi magari un'altra volta che ci becchiamo con più tempo, me ne dirai un paio. Davanti a una birretta, sicuramente. Va bene, va bene. Una domanda che mi è anche quasi diretta, nel senso, chi è il più rompipalle in sale prove? Perché io quando suonavo c'è sempre quello che guarda storto gli altri quando si sbaglia, no? In tutte le band c'è. Chi è il vostro? Ma sai che in realtà non c'è così. No. Sarà che proviamo poco. <Per quello. ride> Proviamo poco è bene in realtà, perché poi alla fine... Boh, vabbè, senza essere no, modesti è brutto, però nel senso, tutto sommato un po' sappiamo suonare forse, quindi sì in realtà no, non c'è questa cosa. No, non è che se uno sbaglia, che c'è da fermarsi, si ricomincia. Tutto io molto solitamente troppo. Quando sbaglio io, sbagliano gli altri, rido, tanto alla fine non è un segreto. Lo non sappiamo che uno sbaglia apposta. È sempre colpa tua. Esatto. Io sono quello che sbaglia più di tutti, sì, comunque. Però tu canti e suoni costantemente, quindi sei giustificato. Esatto. Qui, vabbè, no, perché io l'ho vissuta personale sta roba, perché c'era un mio amico Miki, se mi sta ascoltando, ciao, ti saluto un sacco, mi hai fatto vivere momenti ciao, terribili, ciao. Grande. Però ti voglio un sacco bene, che quando sbagli quella piccola nota, quel piccolo quando ti guardava malissimo, e lui in realtà si scusava, per modo di dire, dicendo ti guardavo per capire dove era l'errore, sì. Però solo che sul momento dice oddio, mi becchi becchi sta questa occhiataccia, e che poi sono 20 anni che ci conosciamo, quindi lo sto dicendo, capirà sicuramente anche lui il discorso, però sai, sul momento dici oddio che cosa ho combinato, però sì, era giusto. Perché anche negli Stanis so che erano qua a inizio grande anno, e nel loro, nella band è Zed quello più ligio, esatto, che guarda male gli altri quando sbagliano. Beh, però in sala prove ci sta a sbagliare. Eh beh, infatti, cioè, live un pochino tipo a me dà fastidio, però non è che sono sul palco mi giro il coco, che fa? Cazzo fai, poi no? Dopo magari, esatto, sempre in maniera positiva, dopo tranquilla, ci picchia dopo picchia proprio rissa, sì, esatto, bottigliate in faccia, esatto. No, va bene, scherzi a parte, ricordiamo anche che la voce di Alessio nel CD era da raffreddato, perché stavo malissimo. È un piccolo aneddoto che stavano raccontando prima i ragazzi, quindi di pure, esatto, stavo malissimo, infatti quando ho detto vabbè dai prova lo stesso, ho detto ma è il caso, invece ho detto, no, bellissimo così, facciamolo assolutamente, infatti è venuto fuori il Get Dead, esatto. Che è venuto fuori il Get Dead che è in me. No, però anche da live comunque li ho visti, ragazzi, sono bravi a suonare, e il timbro comunque è quello, quindi magari se troverete qualche differenza dice ma è dire che nel sembrava più, è perché era raffreddato, fatecelo notare esatto, nel caso giusto un piccolo retroscena, esatto, che magari non volevi si sapesse, però esatto, nel caso se proprio prenderemo date solo quando sono ammalato, esatto pure ti ammalerai apposta. Esatto. No, va bene, dai. Allora, 2020, anche voi ovviamente per il discorso Covid vi ha massacro. Esatto. Eravamo all'inizio, cioè, quindi è stato tutto dilatato la formazione del gruppo, tra sì, si può, no, non si può, beccarsi, non beccarsi, uscire, non uscire. Quindi anche l'intenzione è stata super tirata dal punto di vista dei tempi, quindi sì, anche questo in due anni abbondanti un EP da 6 pezzi probabilmente si farebbe molto meno, ecco, sì, lavorando diciamo con costanza e partendo subito in quinta, ecco, quindi diciamo che ha influito sicuramente, sì, per sì, fortuna, ecco. Anche se devo dire la verità, ha fatto anche cose buone il Covid, perché attenzione. In realtà diciamo la struttura, la base di questi pezzi è stata scritta durante il Covid a casa mia, che eravamo io e Moreno, abbiamo registrato tutte queste canzoni a casa, perché era l'unico modo per vedersi, e tipo in un mese, tipo così, in 2 o 3 prove abbiamo tirato giù, sì, dopo la base, poi dopo le ovviamente fatto girare, esatto, è stato tutto rilavorato, ecco, ci ha reso più efficienti nelle prove, sì, cioè il fatto che anziché arrivare sconclusionati a una prova, sì, senza sapere niente, noi arrivavamo alle prove già preparati, cioè avendo, sì, già ascoltato quello che dovevamo prepararci, imparandoci già i pezzi nuovi prima, poi quando la base, sì, esatto, poi dopo la cambi in base tante cose, in base, esatto, a come può funzionare. Oh, no, vabbè, quindi dai, almeno avete sfruttato il tempo, sì, che si aveva a disposizione in quel periodo per poter portare qualcosa di positivo e sfruttare effettivamente le due prove, perché solitamente quando si va in salita a prove la prima mezz'ora è ti abbassa, ti alza, ti mi devo, sì, accordare, esatto, quindi la prima mezz'ora va in banca, esatto, o provare a far star fermo il batterista di solito anche. Nuova uscita, così. Olè. È un'altra nuova uscita, che ovviamente tanto andremo a chiudere con un altro pezzo degli Old Socks dal loro self-titled. Prima di tornare un attimo, prima di tornare anche con loro, perché hanno un altro aneddoto particolare sulla registrazione del disco, che anche questo Lo diremo con sintesi, perché sennò era un discorso estremamente lungo. Dicevo prima che siamo l'ultima decina di minuti più o meno scarsi, con ancora in compagnia anche degli All Sox, con Vittorio e Alessio che sono qui dall'altra parte del vetro insieme a me, e vi lascio dire il piccolo intoppo che avete avuto purtroppo durante la registrazione del disco. Non registrazione, durante la stampa, poi un po' avevamo iniziato a parlarne prima, quindi con, come dicevo, con la sintesi, la sintesi della sintesi, molto rapida, no? In realtà, come tutte le band underground, ci ritroviamo, diciamo, immersi in mille problemi per fare qualsiasi cosa. In sostanza abbiamo dovuto stampare, diciamo, due volte i dischi per un piccolo, diciamo, intoppo che c'è stato durante la stampa dei dischi. Non ci dilunghiamo magari troppo, perché annoieremo il pubblico e finiremo di parlarne tipo alle 7 di domani sera, quindi evitiamo. Un problema, perché la radio va avanti, o se no dobbiamo ritornare alla prossima puntata, quindi evitiamo. No, diciamo che sì, è stato un po' un accadimento un po' spiacevole, però diciamo come dicevamo prima scusate il gioco di parole, no pain no gain, esatto. No? Quindi le cose sudate, guadagnate proprio col sudore, e in questo caso anche con i soldi, che però si guadagna col sudore, esatto. Sono, diciamo, più sentite, vogliamo più bene, esatto. Quando lo guardi ti emozioni, perché dici: bello, l'ho stampato due volte, no? Chi è che le fa? Chi stampa due volte i dischi? Esatto. Nessuno. Solitamente la doppia stampa è quando cambi colore del vinile, esatto. No? Oppure quando li finisci. Invece il nostro proprio ha detto: guarda, li stampiamo due volte proprio a prescindere, così tanto li finiamo in ogni caso. Bene. Più o meno è andata così, ma in realtà non è andata così. Ma diciamo, noi diciamo che è così. Esatto, ecco. È stato un buon auspicio. Anche perché l'altra stampa non era proprio esatta. Proprio corretta, quindi chiusa la parentesi. Ci stava giusto per dire tutto tondo un po' quello che è successo. Esatto. Io so già, ma ve lo richiedo, date nì, nel senso, ora in realtà essendo uscito praticamente ora l'EP, in concomitanza con l'estate c'è stato un po' di fermo generale, ecco. Però ora col, diciamo, inverno ci sono un paio di situazioni in ballo, e a breve speriamo dovremmo, diciamo, metterle online qualcosina, quindi per il momento ad oggi online non abbiamo date ufficialmente confermate online, però c'è qualcosa, e ora nel più breve tempo possibile usciranno fuori, quindi qualche datina la facciamo e ci dovrete sopportare. Esatto. No, vabbè, io vi riconsiglio, come vi dicevo prima, li ho visti ben due volte. Beh, vedi. Due volte, a Ferrara quando suonaste in apertura Steve Rose, sì? Esatto. E poi quando al vecchio Bologna, Son, al vecchio Son a Bologna, detto. Sì? Anche molto, anche quella data molto molto molto molto interessante, quindi sì. Grazie. Solitamente quando devo intervistare una band, oppure che ho scoperto una band un po' più o meno come il vostro caso, a parte Vittorio che ci conoscevamo già, solitamente ascolto prima la band, poi dopo con della calma riesco a vederli. Stavolta è successo casualmente il contrario. Prima vi ho visti, sono riuscito a vedervi live, e poi effettivamente è arrivato il disco, poi con effettivamente l'intervista. Quindi bello, ci sta. Mi fa piacere, così ho anche il responso positivo, che posso dire che sono bravi, quindi grazie, sei grazie. Troppo buono. No, sono bravi, suonano bene, quindi anche con qualche cover di mezzo mi sembrava. Sì, per rimpolpare un po' tutta la questione. Ma Misfits, esatto. Ci sta, che sono quei grandi classiconi che vanno, sì. vanno fatti. Ragazzi, sono praticamente arrivato alla fine. Andremo a chiudere con un altro pezzo che piace a qualcuno di voi, della band Doing Nothing. Ok, sì, a tutti in realtà. Esatto. Abbastanza democratica come scelta. Esatto, quindi ci stava. Quindi io una domanda molto apertissima, se c'è qualcosa che non vi ho chiesto, che volete dire, avete un minutino, due minutini, poi lanciamo il pezzo e andiamo a chiudere la puntata. Ma questo è un discreto scarico di barile. lo so. Beh, lo sai come te la gioca. Ah, no, allora io sì, voglio ringraziare Danilo, che è sempre disponibile ed è una delle persone che c'è sempre ai concerti, quindi number one. Grazie. Sostenitore attivo della scena. E poi no, in realtà magari sfrutterei. Dobbiamo fare i saluti o li possiamo fare già ora? Fai un mix. Tanto un abbiamo due minuti. No, magari sì, ci terrei a salutare tutte le persone che comunque ancora negli anni continuano a crederci, diciamo, nel punk rock, nell'hardcore, nella musica in generale. Secondo me comunque la musica è sempre un mezzo per unire le persone, aggregare e creare una sorta di comfort zone dove le persone possono sentirsi a casa e stare bene. Quindi diciamo che sì, secondo me, a prescindere dal genere che fai, ora anche noi siamo amici prima di essere una band. Esatto. E questo è lo spirito che ha sempre contraddistinto un po', secondo me, tutti noi nelle nostre varie, diciamo, peripezie musicali. E poi sei amici a prescindere dalla band. Sì, cioè, esatto. Se non domani musicalmente ci dovessimo mandare a quel paese, comunque rimarremo amici, come è successo in passato. Andiamo comunque a fare le grigliate, esatto, da Bolla. Esatto. Ora, bene. Lui sarebbe Bolla, Alessio Bolla. Sì. Perché tutti lo chiamano Bolla, ma si chiama Alessio. C'ha un vero nome. Infatti, c'ha un vero nome. Per chi ci ascolta e ci conosce, si starà chiedendo chi è Alessio. Chi è Alessio? Tipo, indovina chi proprio. Esatto. No, va bene ragazzi, mi fa piacere, grazie della disponibilità. Grazie a te, Dani. Mi ha fatto come al solito. Viva Radio Fujiko. Grazie. Esatto. Radio Città Fujiko, per la precisione. Scusa, ho detto, mi sono mangiato la città, vabbè. Vabbè, dai, capita. Ieri ho fatto tardi, lo sai. Sì, esatto, ieri sera è stata serata brava. Io ragazzi vado a chiudere la puntata, come vi dicevo, grazie della disponibilità, mi ha fatto un sacco piacere avervi qua e aver parlato con voi del vostro disco. Ricordo Old Socks, sono usciti con il loro self-titled EP debut, e andateveli ad ascoltare, sono molto molto interessanti, prima o poi usciranno anche con delle altre date. Quindi io ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Io vado a chiudere la puntata dicendo buon punk rock a tutti.